Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 16 marzo 2015. Agricoltori di Milano. Per l'Expo, varietà nei campi e fattorie diversificate. Al tempo degli austriaci, persino Thomas Jefferson e Benjamin Franklin vennero a vedere di persona le coltivazioni a prati marcitoi di Milano. 250 anni dopo, i coltivatori del comune, riuniti nel consorzio DAM, Distretto Agricolo Milano, propongono ai visitatori dell'Expo una amplissima varietà di coltivazioni da tutto il mondo, in campo e in serra, e fanno conoscere a tutti il modello fattoria diversificata. Le iniziative sono diffuse su tutto il territorio comunale e stanno contribuendo a valorizzare il patrimonio agricolo del capoluogo lombardo. Fin qui la notizia del 16 marzo 2015, ma come sapete il futuro ha radice nel presente, in questo 2012. E in questi giorni il consorzio DAM di Milano, che raccoglie 31 imprese agricole della città che coltivano il 60% della superficie agricola del capoluogo, sta definendo il piano per sfruttare appieno l'occasione di Expo. Andrea Falappi, presidente del consorzio DAM. È normale che Milano sia una città agricola, non dimentichiamoci che è la seconda città come superficie agricola d'Italia, secondo comune. E come valore fatturato è sicuramente il primo comune d'Italia. Siamo su un territorio che è stata la culla dell'agricoltura d'avanguardia tecnologica per circa 200 anni. Venivano da tutto il mondo, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin sono venuti a Milano alla fine del Settecento per vedere le coltivazioni a prati marcitori che davano l'erba tutto l'anno. Il 2015 è un passaggio importante da sfruttare proprio per rilanciare questa agricoltura, per tutte quelle che sono però anche altre sue valenze, la multifunzionalità che l'agricoltura può esprimere quando è vicina ad una città che ha necessità di una serie di servizi che sono dal mantenimento dell'ambiente, dalla fruizione, dalla didattica, dalla possibilità di avere prodotti di vicinanza, chilometro zero. L'agricoltura, come quella del Comune di Milano, di vicinanza al sito Expo, collaborerà per la parte esterna della manifestazione. Ad esempio, quei paesaggi che erano previsti nell'ambito precedente dell'Expo, noi abbiamo prospettato di produrli noi, ad esempio coltivazione di altri paesi a livello di serra, ma anche scoperti di prodotti non nostri, non tipici della nostra cultura, ma di altre culture, in modo tale da fare un percorso di avvicinamento all'Expo in questo senso. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.